24. La storia. Il 24 agosto vennero bombardate le officine Ustanov, che erano vicinissime al campo di Buchenwald. Le bombe americane furono sganciate su queste, che erano officine che producevano armi per la guerra, quindi l'obiettivo non era il campo di Buchenwald, ma una di queste bombe colpì in pieno il terrapieno dove si era rifugiata Mafalda insieme ai suoi compagni di prigionia. Sia lo spostamento d'aria sia i detriti coprirono Mafalda e le altre persone. Venne disseppellita, aveva il braccio sinistro completamente maciullato e poi varie scoriazioni e bruciature in tutto il corpo e anche in faccia. Quando Mafalda venne ferita il 24 agosto, non fu immediatamente curata, venne lasciata a se stessa, non ci fu una volontà immediata da parte del medico del Lager di intervenire su quella che all'inizio poteva anche essere un'ustione curabile. E quindi da questo che cosa possiamo dedurre? Che era una persona molto scomoda. Indubbiamente anche le modalità dell'operazione costituiscono un altro dei misteri sulla morte di Mafalda. E ancora oggi la storia del rapimento e della morte nel campo di concentramento di Buchenwald di Mafalda di Savoia, figlia del re Vittorio Emanuele III, è una pagina oscura della storia d'Italia e della storia di Casa Savoia. Oggi su Mix 24 raccontiamo la storia di Mafalda di Savoia. A parlarcene è la principessa Maria Gabriella di Savoia, nipote di Mafalda e custode della storia di Casa Reale. Ma in casa voi parlavate di Mafalda? Si parlava nella sua infanzia? Sentivo parlare di Mafalda? Sì, molto spesso. E come se ne parlava? Da mia madre, che ne parlava con molto affetto, mi ha detto che era la sua cognata preferita, quella con cui stava meglio in compagnia e si vedevano spessissimo. Quindi c'era un rapporto, sì, c'era un rapporto presenza. Veramente di amicizia. Che cosa rappresenta per i Savoia la storia di sua zia Mafalda? Ah beh, che è stata una storia tragica, perché è stata una vittima del conflitto. Ma perché Mafalda di Savoia muore a Buchenwald? E perché la figlia del re d'Italia, moglie del principe d'Assia, un ufficiale di alto grado dell'esercito tedesco, è stata rapita proprio dai tedeschi e internata in un campo di concentramento? Il dramma degli ultimi giorni di Mafalda inizia subito dopo l'8 settembre. Il padre Vittorio Emanuele III è scappato a Brindisi con Badoglio e con tutta la famiglia reale. Il paese è spaccato in due, con il sud già liberato dagli alleati e il centro-nord ancora occupato dai tedeschi. E il 22 settembre del 43, a Roma, Mafalda arriva in macchina a Villa Volkonsky, la sede dell'ambasciata tedesca, e l'inizio della sua tragedia. Ma perché Mafalda è ancora a Roma? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro. È il 28 agosto del 43, Mafalda parte per la Bulgaria, dove re Boris sta morendo. Il re di Bulgaria, marito di Giovanna di Savoia, sorella di Mafalda, sta per morire. Mafalda parte per Sofia, ma quando arriva, re Boris è già morto. Subito dopo i funerali la principessa prende un treno per ritornare in Italia. Nella notte si ferma a Sinaia, in Romania. Ed è qui che la regina di Romania, Elena, salendo sul treno, riesce ad avvisarla dell'avvenuto armistizio dell'8 settembre. Mafalda ha fretta di tornare a Roma per raggiungere i figli. Riesce a salire su un aereo che la porta a Pescara. Lì viene a sapere che i genitori si sono trasferiti con Badoglio a Brindisi. Mafalda ingenuamente crede di non aver nulla da temere. Ha sposato un tedesco, è una principessa tedesca. A raccontarcelo, la biografa di Mafalda, Mario Safier, e il figlio di Mafalda, il principe Enrico d'Assia. Molti storici si sono chiesti perché mai Vittorio Emanuele III non si fosse fatto premura di avvertire la figlia che stava per essere siglato un armistizio, e quindi che l'Italia si sarebbe trovata in una posizione estremamente difficile verso il suo alleato, verso la Germania. Ecco, il re purtroppo non era avvertito della data esatta dell'armistizio. Da quello che gli avevano detto, l'armistizio avrebbe dovuto essere stato firmato il 12, forse il 14 settembre. Quindi, facendo un conto anche se approssimativo, si poteva pensare che Mafalda, partendo per la morte di Boris avvenuta appunto il 28 agosto, fermandosi anche qualche giorno vicino alla sorella, avrebbe fatto comunque in tempo a tornare indietro senza che ci fossero dei problemi di natura ovviamente politica. Il re si sarà trovato in un delicatissimo frangente: dire alla figlia che c'era questo pericolo non poteva, perché avrebbe trito un segreto di Stato. Questo discorso di rispetto assoluto e di non mescolare mai quelli che erano i fatti politici con quello che i sentimenti privati, i sentimenti personali, ha sempre informato tutta la vita dei reali. Dopo l'8 settembre ero ospite in Vaticano di Monsignor Montini, che poi fu eletto Papa Paolo VI, e mia madre arrivò e si precipitò subito in Vaticano da noi ed era molto pallida, molto magra. Era sempre stata molto magra, ma veramente ridotta proprio malissimo. Però era felice di vederci. Era un vestitino nero con quale era partito per il funerale. Ci raccontò quello che aveva passato durante questo viaggio terribile. Era molto affaticato. Cioè, adesso io tenterò stasera o domani mattina di avere un contatto con papà in Germania, telefonico. E poi per le 10, senz'altro, sono qui a raccontarmi cosa è successo in Germania, questa papà, e cosa saranno i nostri progetti futuri. Dunque il re Vittorio Emanuele III non avverte la figlia dell'imminente firma dell'armistizio con le forze alleate. Mafalda è provata dal viaggio in Bulgaria, ma non sa che ad attenderla c'è una vera e propria trappola. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, stiamo raccontando la storia del rapimento di Mafalda di Savoia. Dal mese di settembre del 43, rapita dall'esercito tedesco, la principessa non rivedrà mai più i suoi figli. Il padre di Mafalda, il re Vittorio Emanuele III, non ha avvisato la figlia della firma dell'armistizio dell'8 settembre. Forse perché a impedirglielo è la ragione di Stato. O forse perché nutriva la speranza che la figlia tornasse dalla Bulgaria in tempo per mettersi in salvo con il resto della famiglia. Invece non è andata così. Sentiamo il racconto del principe Enrico d'Assia. Il vicequestore Marchitto disse che nostra madre era stata chiamata dall'ambasciata di Germania, all'epoca la Villa Volkovsky, e che da lì era riuscito a parlare con nostro padre, e nostro padre aveva pregato di partire subito, che c'era pronto un aereo che doveva partire. Mafalda viene fatta dunque arrivare a Villa Volkonski, sede dell'ambasciata tedesca, con uno stratagemma estremamente raffinato al quale non avrebbe potuto dire di no. Si tratta infatti di una telefonata del marito, il principe Filippo d'Assia, che Mafalda non sente da moltissimo tempo. Ma a Villa Volkonski la principessa non viene fatta neanche entrare. Ad attenderla c'è un ufficiale tedesco, indicato come persona che dovrebbe accompagnarla all'aeroporto. Mafalda sale in macchina strattonata dagli ufficiali e viene condotta all'aeroporto senza nessuna spiegazione. Di lì imbarcata per la Germania. L'operazione di arresto di Mafalda, chiamata Operazione Abeba, viene gestita direttamente da Kappler, così il principe Enrico d'Assia. Io parlai anche con Kappler, ha detto che aveva anticipato la sua partenza perché nostro padre aveva richiesto la sua presenza subito in Germania e che lui doveva occuparsi di noi per spedirci poi per conto nostro in Germania. Mafalda dunque è stata arrestata dai tedeschi. La sua ingenuità, la paura per l'incolumità dei figli, il desiderio di rivedere il marito, il fatto di essere pur sempre una principessa tedesca le hanno dato troppa sicurezza. Mafalda cade così nella trappola preparata da Kappler. E del resto, l'arresto di Mafalda di Savoia è il frutto di un piano molto preciso e ben preordinato, un piano che viene direttamente dall'alto comando di Berlino. Nella cattura di Mafalda di Savoia niente sembra essere lasciato al caso. È preceduta infatti da uno scambio di telegrammi e da un carteggio tra la Gestapo e Kappler, quindi tra Roma e Berlino, per mettere a punto l'operazione Abeba. Ma quali furono i motivi? A spiegarlo è Mario Safier, biografa di Mafalda. Il perché è spiegato, perlomeno in parte, anche in uno dei diari di Speer, che all'epoca era ministro in Germania. E Speer parla di Hitler dicendo che aveva anche la certezza assoluta, dal suo punto di vista evidentemente, che tra Mafalda e Filippo D'Assia ci fosse un carteggio in codice, e non solo un carteggio, ma anche attraverso le telefonate, evidentemente anche i loro telefoni erano sotto controllo, ci fossero dei messaggi in codice. Io ho trovato nella scrivania di mia madre dei foglietti con delle frasi e mezze frasi e parole con numeri. Si vede che erano dati questo codice scambiato prima, l'ultima volta che si sono visti, io non so come fu la cosa, ma abbiamo ancora questi foglietti stranissimi. Su Mafalda i nazisti avevano aperto un dossier, era continuamente sorvegliata dalla polizia segreta tedesca, e poi nei suoi diari Göring esprime dei giudizi pesantemente negativi su Mafalda, chiamandola addirittura bestia intrigante. Ora, proprio l'aggettivo intrigante ci fa pensare che i tedeschi, i nazisti, vedevano in Mafalda una persona che in qualche modo aveva influenzato gli avvenimenti politici, che non è vero affatto. Non aveva la duplicità, la doppiezza, l'ambiguità, se vogliamo, della diplomazia, che è necessaria proprio per fare politica. Quindi era troppo spontanea per potersi definire una buona politica, e lo abbiamo visto anche nei riflessi con il suo rapporto con Hitler. Lei ha vissuto un lungo periodo di tempo, appena sposata, in Germania, proprio perché il marito era stato nominato Oberpräsident a Kassel, e quindi aveva avuto ovviamente con questa carica ufficiale molti contatti con Hitler, ma lei non aveva mai nascosto la sua antipatia verso l'uomo, poi di conseguenza anche ovviamente si può capire il tipo di politica che ha perseguito Hitler nel corso della sua carriera. Mafalda non ha mai nascosto la sua ostilità verso Hitler. Dopo l'8 settembre, la data della firma dell'armistizio, la principessa si trova suo malgrado al centro di una rete di sospetti, intrighi, vendette che fanno capo direttamente a Hitler. Mafalda, insomma, è in qualche modo un ostaggio della storia, della caduta di Mussolini, della firma dell'armistizio, delle preoccupazioni di Hitler. Ma perché proprio Mafalda? La cattura di Mafalda è da considerarsi, secondo il principe Enrico d'Assia, una vendetta di Hitler per l'uscita dalla guerra da parte di Vittorio Emanuele III. Arrivare a un armistizio per conto dell'Italia senza aver avvertito Hitler era una cosa che il Führer non poteva tollerare. Sentiamo lo stesso principe Enrico d'Assia. Dai documenti che si sono trovati in Germania, mia madre, la poverina, era la preda più facile in quel momento per vendicarsi. Gli ordini venivano senz'altro da Hitler, però bisogna risalire al 25 luglio del 43, perché con il 25 luglio e la caduta di Mussolini in Germania Hitler senz'altro pensava che prima o poi si sarebbe divenuti a un cambiamento di fronte in Italia, quindi già da allora viene organizzata un'operazione che avrebbe dovuto rapire e far prigioniera l'intera famiglia reale. L'8 settembre abbiamo l'armistizio, però la famiglia reale riesce a sfuggire a Hitler, riesce a sfuggire a Kappler. L'unica che rimane in un certo senso è Mafalda. Con Mafalda si voleva prendere un membro della famiglia italiana, eventualmente poi per sottoporre a ricatto la famiglia stessa, insomma era un ostaggio. Io ho preso l'iniziativa e ho scritto una lettera alla signora Göring per sapere qualcosa, e molto carinamente mi rispose. Caro principe Enrico, mi spiace veramente tanto che lei e i suoi fratelli dobbiate passare tempi così difficili. Per tranquillizzarla posso assicurarle che i suoi genitori si trovano in Germania e stanno bene. Comprendo la sua preoccupazione, ma suppongo che quando questa guerra sarà finita, tutto si sistemerà. Forse sarebbe opportuno dire ai suoi fratelli che il papà è in guerra e non indagare oltre sulle sorti di vostra madre. Sia coraggioso, in questo modo aiuterà anche i suoi genitori. Auguro a lei e ai suoi fratelli ogni bene. La saluta con Heil Hitler, la sua Amy Göring. E questo era. Dopo questo non abbiamo più potuto fare niente, sapere niente. Per un altro anno intero, quasi. Era il testo della lettera di Amy Göring, la moglie di Hermann Göring, al principe d'Assia. I figli di Mafalda, insomma, non riescono ad avere nessuna notizia della madre e nessuno in Germania ha intenzione di aiutarli. Il destino di Mafalda dunque sembra segnato, ma forse il suo destino era già segnato molti mesi prima del suo arresto. Già molti mesi prima dell'8 settembre, infatti, il marito di Mafalda, Filippo d'Assia, che si occupava per conto di Hitler proprio dei rapporti con l'Italia, ha tentato una mediazione diplomatica per far uscire l'Italia dalla guerra. Ascoltiamo la testimonianza di Filippo d'Assia, raccolta dallo storico Renato Barneschi. Alla fine dell'inverno del 43 mi trovavo in Italia, a Villa Polissena. La situazione bellica e il fronte interno dell'Asse si erano fatti così preoccupanti che pensai fosse il caso di parlarne con mio cognato, il principe ereditario, Umberto di Savoia. Io feci ad Umberto una descrizione della situazione così come poteva apparirmi dall'Italia e dalla Germania, in base alle precise informazioni di cui disponevo. Da esse risultava che ormai Mussolini non aveva più al suo fianco né il popolo italiano né il partito fascista e che il disfattismo da qualche mese aveva cominciato a serpeggiare anche tra il popolo tedesco, mentre da tutti i fronti di guerra giungevano notizie disastrose. La catastrofe definitiva è imminente, ricordo di avergli detto. Italia e Germania devono trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Per coscienza e per l'amore che portiamo ai nostri due paesi, gli dissi allora, devi permettermi di parlare di tutto questo a Hitler non appena rientrerò in Germania. Devi autorizzarmi a riferirgli ogni passo di questo nostro colloquio. Hai molto coraggio, fu la sua risposta. Auguro ai nostri due popoli e alle nostre famiglie che la tua iniziativa abbia successo. Quella sera stessa telefonai al quartier generale tedesco per chiedere un'udienza urgente con Hitler, che quello stesso giorno si era incontrato con Mussolini e il reggente ungherese Horthy. Filippo d'Assia, marito di Mafalda, incontra Hitler verso il 15 di aprile, immediatamente dopo l'incontro Hitler-Mussolini, nel quale era venuto il 7 aprile e nello stesso giorno lui aveva chiesto telefonicamente il colloquio che poi gli è stato concesso. Il colloquio fu estremamente burrascoso, perché dopo aver esposto con molta franchezza i termini militari e di preoccupazione che esistevano in Italia, come anche già in Germania cominciavano, Hitler andò su tutte le furie, inveì contro la casa regnante italiana, la casa di Savoia, in particolare contro il re Vittorio Emanuele III. Introdotto davanti a Hitler, entrai subito in argomento, senza preamboli. Rimasi ad ascoltarmi per qualche minuto, sempre più livido di stizza via via che io gli riferivo il colloquio avuto con Umberto. Poi all'improvviso si alzò dalla poltrona e, cominciando a camminare avanti e indietro per tutta la lunghezza della stanza, proruppe in una lunga furiosa invettiva contro la casa reale italiana, contro Umberto e contro gli italiani. «Questi Savoia sono degli ingrati», disse tornando a sedersi. «Non hanno il minimo senso di riconoscenza per ciò che Mussolini ha fatto per loro e per l'Italia». Replicai che ora si trattava di avere soprattutto senso della realtà. «Ridicolo», ribatté lui. «Tutto ciò che mi avete detto è ridicolo. In ogni guerra ci sono momenti buoni e momenti meno buoni. Si aggiusterà tutto, anche in Italia. Mussolini tornerà presto a godere la fiducia del suo popolo e tutto finirà bene». Il tono con cui disse queste ultime parole era di quelli che non ammettono replica. Capii che la mia iniziativa era fallita ed ebbi anche il presentimento che avrei pagata cara la mia audacia. Era la testimonianza di Filippo d'Assia, resa allo storico Renato Barneschi. Un tentativo di mediazione che costerà molto caro allo stesso Filippo d'Assia. Mix 24. La storia. Filippo d'Assia, dopo il colloquio con Hitler, è convinto di essere arrestato, ma invece non è così, almeno nell'immediato. Nei primi giorni di maggio del 1943 è convocato al quartier generale di Hitler e trattenuto con la scusa di studiare i piani di ristrutturazione della città di Linz. Contemporaneamente, alla fine del mese, Rommel, rientrato dalla Tunisia prima della sconfitta militare totale dell'asse, viene convocato dal Führer e incaricato di predisporre l'invasione dell'Italia. Il Führer è ormai convinto che la Casa Savoia e il Re d'Italia hanno deciso di portare fuori dal conflitto l'Italia. L'uscita della guerra dell'Italia significa una possibile reazione a catena, ovvero altre nazioni come Ungheria, Bulgaria e Romania sarebbero uscite dal conflitto. I piani di Rommel si sarebbero svelati dopo l'8 settembre, e cioè un attacco contemporaneo su tutto lo scacchiere sud-orientale, nei Balcani e in Italia, l'esercito italiano si sarebbe così trovato nelle condizioni di essere catturato. Il tentativo del marito di Mafalda, Filippo D'Assia, di mediare tra l'Italia e la Germania in quei giorni cruciali del 43 fallisce miseramente, anzi si ritorce contro di lui. Filippo D'Assia infatti verrà arrestato la sera dell'8 settembre, deportato in un campo di concentramento tedesco. Ma torniamo alla storia di Mafalda. Cosa sapeva Mafalda delle iniziative di suo marito? E in che modo lo aveva aiutato, se lo aveva aiutato, a tessere quella tela diplomatica? Secondo la Gestapo, Mafalda sa molte cose. Dunque la principessa deve essere interrogata direttamente a Berlino. Ancora gli storici Mario Safier e Giulio Vignoli. Mafalda, appena sbarcata in Germania, non viene portata a Buchenwald, viene condotta al quartier generale germanico a Berlino. E lì viene trattenuta per 3 settimane. Di queste 3 settimane io non ho trovato nessuna traccia di quello che è accaduto, di quello che è successo. Sarebbe strano se l'avessero continuata ad interrogare per 3 settimane. Era veramente un ostaggio nelle mani dei tedeschi. Per un certo periodo venne sottoposta a questi interrogatori, però non si sa molto di più, perché Mafalda stessa non voleva approfondire l'argomento. La sua compagna di baracca ha testimoniato in sede di inchiesta aperta dagli alleati nel 45, quando occuparono il campo di concentramento, che alle domande Mafalda veniva presa come da un terrore, da un tremito, per cui le persone lasciavano cadere il discorso. Quindi deve essere stata una detenzione, un trattamento piuttosto duro, se poi provocava simili reazioni emotive. L'interrogatorio che Mafalda ebbe al centro interrogatori della Gestapo di Berlino, e che durò praticamente, diciamo, dal 23 fino al 23 di settembre al 18 d'ottobre, data in cui fu trasferita da Berlino a Buchenwald, si deve pensare che sia stato un momento terribile per Mafalda, in quanto i sospetti su di lei, ce lo dicono i documenti ufficiali, vari diari di Goebbels, Göring e compagnia, sospettavano che fosse stata a conoscenza di questa iniziativa di pace chiesta da Umberto tramite il cognato, facesse demolire tutta quella campagna contro l'Italia che tradisce. Non abbiamo nessuna prova. Quello che abbiamo come prova è che da quel momento Mafalda non è stata trasferita in un campo di concentramento, di detenzione, diciamo così, dura quanto si vuole, come la sorella Maria, suo marito e i 2 figli. Lei è stata internata nel campo di concentramento KZ Buchenwald, dove erano internati tutti i nemici del nazismo, in particolare i tedeschi, e fu internata nella baracca 15, dove c'era il capo dei socialisti Rudolf Breyst, quindi proprio nel campo di punizione dei nemici del Reich. Dunque, chi ha deciso di internare la principessa Mafalda a Buchenwald ha le idee molto chiare. La principessa D'Assia è una nemica del Terzo Reich, una nemica scomoda, la cui prigionia però va occultata. Giulio Vignoli. Inizialmente Mafalda venne registrata col suo nome, cioè come principessa di Savoia, però forse si trattò di un errore di un addetto. E poi le fu imposto di non manifestare la propria identità e le venne dato il nome von Weber, cioè Frau Signora von Weber. Venne ospitata in una baracca ai margini del campo, abitata da lei ed un'altra donna. Ora questa donna non risulta avesse funzioni politiche, per cui non si riesce bene a comprendere perché abitasse con Mafalda, nella parte del campo che era destinata ai prigionieri speciali, cioè naturalmente chi pensa che fosse una funzione di controllo. Probabilmente vi procurerò con questa lettera un grande dolore. Ciononostante mi sento in dovere di scriverla, poiché sono forse l'unica persona che sia stata vicina a vostra madre nel suo ultimo anno di vita nel campo di concentramento di Buchenwald. L'unica con cui essa abbia parlato spesso, quasi ogni giorno, dei suoi figli, della sua famiglia, di tutta la sua vita. Nelle prime settimane piangeva molto e noi riuscivamo a stento a confortarla. Prima dell'inizio dell'inverno, dopo numerose ed insistenti richieste, vostra madre ricevette qualche capo di vestiario più caldo, abiti e biancheria che erano stati presi ad altre prigioniere ebree e che la signora Runau aggiustava sulle misure di vostra madre. Nonostante ogni diversivo, era però sempre ben cosciente della sua situazione disperata. Spesso soffriva di profonde crisi di depressione e diceva, per esempio, che non avrebbe veduto la fine della sua prigionia. Mi pregò di dirvi, appena avessi riacquistato la libertà, quanto amore avesse portato ai suoi figli e quanto ne avesse sofferto la mancanza ogni giorno. È stata una tortura senza eguali, quella di non lasciarle pervenire la minima notizia, nonostante vostra madre continuasse a scrivere a tutti voi, a vostra nonna, a Hitler e da vari funzionari della Gestapo. Come per tutti i prigionieri nei campi di concentramento, anche per Mafalda, Buchenwald è un buco nero di orrore e di dolore. Mafalda tenta disperatamente in ogni modo di comunicare verso l'esterno, ma non ci riesce. Le speranze si affievoliscono sempre di più. Siamo al 24 agosto del 44. Gli alleati bombardano il campo di concentramento di Buchenwald. Il 24 agosto vennero bombardate le officine Gustanov, che erano vicinissime al campo di Buchenwald. Le bombe americane furono sganciate su queste, che erano officine che producevano armi per la guerra, quindi l'obiettivo non era il campo di Buchenwald, ma una di queste bombe colpì in pieno il terrapieno dove si era rifugiata Mafalda insieme ai suoi compagni di prigionia. Sia lo spostamento d'aria sia i detriti coprirono Mafalda e le altre persone. Venne disseppellita, aveva il braccio sinistro completamente maciullato e poi varie scoriazioni e bruciature in tutto il corpo e anche in faccia. Non si trovava una barella, venne stesa su una scala a pioli su cui erano state messe delle tavole. Una prostituta si offrì spontaneamente di assisterla. Quando Mafalda venne ferita il 24 agosto, non fu immediatamente curata, venne lasciata a se stessa, non ci fu una volontà immediata da parte del medico del Lager di intervenire su quella che all'inizio poteva anche essere un'ustione curabile. E quindi da questo che cosa possiamo dedurre? Che era una persona molto scomoda. Indubbiamente anche le modalità dell'operazione costituiscono un altro dei misteri sulla morte di Mafalda. Nel campo c'erano più medici, c'era il dottor Horn, che era il medico dei prigionieri. Si offerse, la sua offerta venne respinta e l'operazione venne fatta dal dottore, degli ufficiali nazisti. Mafalda morì fra atroci dolori, perché la faccia del cadavere era completamente stravolta e i denti mordevano le labbra. E poi mi è capitato di sentire che avevano trovato la tomba di mia madre a Weimar e che era morta nel campo di concentramento di Buchenwald. Io sul momento non sapevo cosa fare, poi sono uscito, c'era il coprifuoco, mi ho potuto uscire di casa, quindi ci sono uscito. Mi sono corso da mia zia e sono rimasto lì la notte sul sofà con lei a piangere. Era il figlio di Mafalda di Savoia, Enrico D'Assia. Mix 24, la storia. La tragica fine di Mafalda non finisce qui, perché il cadavere è completamente denudato in una catasta per essere portati al forno crematorio. Viene riconosciuto da un sacerdote cecoslovacco padre Thiel, che era anche lui internato, e proprio perché il cadavere è mancante completamente del braccio. Riesce a trafugare il cadavere e a metterlo in una cassa provvisoria e a seppellirlo nel cimitero di Weimar, però sotto una scritta, sotto una croce di legno dove c'è scritto Eine unbekannte Frau, cioè una donna sconosciuta. Era lo storico Giulio Vignoli. Rieccoci a Mix 24. La tomba della principessa Mafalda resterà senza nome per molti mesi. A identificarla dopo la fine della guerra sarà un gruppo di marinai di Gaeta, anche loro internati a Buchenwald. Questa tomba della principessa Mafalda stava assieme a tutte le altre tombe, non doveva segnalarla nessuno. E l'abbiamo scoperto in mezzo del custode. È vicino, c'è un pezzo di lamiera zingata che c'è scritto donna sconosciuta, però nell'interno di dietro, dove stava vicino alla croce, c'era scritto Mafalda. Le spoglie di Mafalda di Savoia riposano nel piccolo cimitero di Kronberg, nella casa di famiglia appunto degli Assia, un luogo dove lei aveva desiderato di riposare, perché fin da quando era viva aveva sempre detto che voleva essere sepolta accanto al suo suocero, all'Angravio. Quella di Mafalda di Savoia sembra una storia senza fine. Nel maggio del 45 una rivista americana pubblica una notizia che in 24 ore fa il giro del mondo. La responsabilità della morte di Mafalda di Savoia è tutta da attribuire a suo marito, a Filippo d'Assia. La principessa, infatti, secondo il giornale, sarebbe stata internata per iniziativa del marito, che era un fervente nazista e che l'avrebbe denunciata per il suo scarso entusiasmo nei confronti di Hitler e del suo regime. Nessuno però pubblicò mai la smentita ufficiale degli Assia e della stessa regina Elena, madre di Mafalda. Ma intanto, che cosa ne è stato del marito di Mafalda, Filippo d'Assia? Ascoltiamo il figlio Enrico. Papà è stato in tutto 2 anni in campo di concentramento tedesco e poi altri 2 anni e mezzo in campi di internamento americano, perché c'era la denazificazione, come la chiamavano all'epoca, siccome era appartenuto al partito nazista, tutti dovevano subire un processo prima di essere rilasciati. Ho dovuto aspettare 2 anni e mezzo, poi è stato completamente scagionato e ho potuto raggiungerci. E poi da padre, quando finalmente dopo 4 anni e mezzo uscì dai campi, ci disse subito a noi figli: per favore, per me è un capitolo chiuso, non voglio parlare più. E non ho mai più toccato il soggetto in quel periodo lì, non volevo parlare di queste cose assolutamente. Napoli, 14 marzo 1946, così il testo della smentita della regina Elena all'Alto Commissariato Americano per la Germania nel 1946. Permetta ai miei addolorati sentimenti di madre di rivolgersi alla sua comprensione e pregarla di voler disporre provvedimenti atti a temperare le sventure che, in seguito al martirio e alla morte di mia figlia Mafalda, principessa d'Assia, ne hanno provato il marito e i figli. Mio genero è stato duramente colpito, privato della famiglia, della libertà, dei beni, insidiato da ignobili leggende con le quali il nazismo volle colpirlo, sino a far credere che egli avesse concorso nelle insidie alla vita della moglie, tormentato per la fine di questa, non spera che di finire la vita nel raccoglimento, per risparmiare ai figli le sofferenze dei loro genitori. La storia della principessa Mafalda di Savoia dunque resta ancora oggi un mistero. Di queste vicende terribili della guerra e dei nazionalsocialismi che travolsero l'Europa e i destini di milioni di persone se ne sta occupando, è il suo secondo libro, una grande giornalista, Lilli Gruber. È appena uscito infatti Tempesta, edito Rizzoli. Buongiorno Lilli Gruber. Buongiorno a tutti voi. Questo è il suo secondo libro dopo Eredità, uscito nel 2012, che racconta la storia della sua famiglia e più in generale della sua terra, il Sud Tirolo, travolte dagli eventi atroci di quegli anni della Seconda Guerra Mondiale. Natale. Ecco, quest'ultimo libro, Tempesta, è il secondo capitolo della storia raccontata in Eredità? Sì, è praticamente un sequel, la grande richiesta, perché quando 2 anni fa è uscito Eredità, la risposta del pubblico è stata fortissima, mi sono arrivate tantissime lettere, email e tantissime richieste di un seguito, e il seguito c'era nei fatti, perché in questo Tempesta io racconto praticamente gli anni della Seconda Guerra Mondiale, che in Sud Tirolo sono stati speciali e particolarmente difficili, e così ho modo anche di raccontare quello che ne è stato poi della mia prozia Hella Rizzoli. Esatto, la protagonista è Hella, la sua prozia. Come possiamo definirla? Chi è Hella Rizzoli? Allora, Hella Rizzoli è una giovane donna appassionata, stretta tra 2 dittature, l'una subita, il fascismo, e l'altra sciaguratamente scelta, il nazismo. E, diciamo che in Tempesta racconto anche la storia della disillusione di questa giovane ragazza che viene da un'ottima famiglia e che si appassiona di Hitler e del nazionalsocialismo, crede che il Terzo Reich, come molti altri sudtirolesi hanno creduto, sia l'unica possibilità per difendere la germanicità dei sudtirolesi, quindi la loro identità, la loro cultura, la loro lingua, ma a sue spese, adesso non vi posso naturalmente dire svelare tutto, il finale, svelare tutto, ma insomma pagherà un alto prezzo per una serie di Lei ha detto che c'è una parte di finzione nel suo libro, ma poi la storia è anche autentica. Che cosa c'è di assolutamente vero nel personaggio di Hella Rizzoli che lei racconta? Ma nel personaggio di Hella Rizzoli c'è tutto di vero, perché è vero che lei ha avuto questa formazione, diciamo, filo nazional socialista, è vero che si è innamorata di Bastl Chic, il suo grande amore, e anche qui non possiamo poi dire come andrà a finire, è vero che poi ha avuto gemelli, e, insomma, è vera, tutta la sua storia è vera, e sono riuscita a ricostruirla grazie al ritrovamento di lettere. Ecco, quali sono state le sue fonti? Le mie fonti sono state intanto la memoria soprattutto di mia madre, che è una signora di quasi 88 anni, che è stata preziosissima sia per Eredità che anche per questo libro nuovo Tempesta. Poi le ricerche negli archivi storici, il ritrovamento di documenti e lettere della famiglia, e poi naturalmente la lettura di tantissimi libri. Lei può immaginare quanti sono i libri sulla Seconda Guerra Mondiale. Io ne ho scelti alcuni in particolare per alcuni tipi di eventi che mi interessavano in particolar modo. Quindi sua madre è la sua prima lettrice? Assolutamente sì. Lei ha detto di questo libro: è più intensamente mio di qualsiasi altra cosa io abbia mai scritto. Perché? Perché è un'esplorazione personale del peggiore incubo della nostra memoria collettiva, no? La Seconda Guerra Mondiale, tutto quello che è successo in quei terribili anni ci interpella tutti ancora oggi, anche se io non ero nemmeno nata, ma abbiamo tutti il dovere di sapere cosa è successo, di conservarne memoria, proprio per non ricadere in alcune situazioni, in alcuni errori che ci hanno portato nel baratro. E questo è quello che è successo. Lilli Gruber, lei ha detto che indagando in questa storia tragica di questi anni bui per l'Europa che ricordiamo, ha capito che ognuno di noi può sempre scegliere tra il bene e il male. Quando lo ha capito? L'ho capito man mano che proseguivo nelle ricerche su quegli anni, nelle ricerche sulla storia della mia famiglia, perché quella figura di Hella, che è una figura anche molto, molto tragica, se vogliamo, che ha avuto una vita da romanzo, ed è per questo che ho sentito anche il dovere di scrivere la sua storia, che mi consentiva, attraverso la piccola storia di Hella del Sud Tirolo, di raccontare la grande storia della Seconda Guerra Mondiale, mi sono ritrovata a chiedermi continuamente: ma io cosa avrei fatto al suo posto? E allora io non posso giustificare, ma non ho voluto neanche essere un, diciamo, giudice senza appello, ma quello che ho voluto trasmettere, che voglio trasmettere attraverso questo libro Tempesta, è esattamente questo messaggio: che di fronte alle grandi tragedie collettive nessuno di noi è innocente e nessuno di noi può chiamarsi fuori, perché c'è sempre un momento in cui noi possiamo scegliere tra il bene e il male. Questa è l'assunzione di responsabilità individuale. Le faccio una domanda forse un po' dura, ma lei condanna alla fine Hella? Beh, come faccio a non condannarla? Certo che la condanno, perché gli anni della Seconda Guerra Mondiale sono stati gli anni del buio della ragione, dell'umanità. Anche Hella in fondo aveva avuto occasione per capire che Hitler, al di là della difesa della germanicità dei sudtirolesi, e anche questa è tutta da vedere, ha mandato milioni di giovani uomini a morire sul fronte orientale, ha scatenato una guerra mondiale. È stata la follia, se vogliamo dircela tutta, è stata la follia. E la cosa che ci dobbiamo chiedere tutti è come è stato possibile arrivare fino a questo punto. E allora questo è l'altro punto fondamentale, credo: capire che l'ascesa del nazismo o delle dittature è un processo di maturazione molto lento del male, dove ancora una volta alla fine nessuno può dichiararsi innocente. Allora, siccome viviamo in tempi di grande intolleranza, di aumento di neonazionalismi, dobbiamo stare molto attenti rispetto a chi è diverso da noi e a non considerarlo come un nostro nemico. Grazie Lilli Gruber, auguri, e in libreria con Tempesta. Grazie a voi.